American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Voce di merda. Ma devi star zitto. E bentornati a Morti di Bestemmie. Io spero che mi stiate sentendo. E qui con me, io sono Alex Racuglia, questo è Morti di Bestemmie su runtimeradio.it. E qui con me ci sono i due romani, vai! Vai, da chi iniziamo le due romane? Un a casaccio, io, Simone Pizzi, che sono veramente on fire stasera, sono veramente in forma, ho talmente tanto ritmo che probabilmente adesso sono le uniche cose che sentite di dire da me. E c'è anche Marco Gualdi. Ecco, mi sono chiesto, aspetta, mi sistemo perché un po' che prendo posto in questa impostazione. Poi, cioè, non lo fai mai il rumore scricchio lì? Il cellulare l'hai abbassato? No, ho smesso il volume al massimo. Non so, bisogna fare queste cose qui. Poi lanciare sempre il avvisiamo subito la gentile clientela che sta per la prima volta. Perché vedete, c'è una prima volta per tutti, anche quegli sboroni come me che fanno tutti, è la prima volta sto registrando con Audacity. Ebbene sì, quindi è un'emozione improponibile. Perché questa è una puntata speciale di Morti di Bestemmie, per cui potremmo morire di bestemmie noi mentre registriamo. Pensa, io alla Natale se volevo proporre, e poi faremo prima o poi, perché abbiamo parlato di bimbi minchia nella vita. Abbiamo parlato di, che ne so, mamme, cioè matures, ragazzi. Mamme minchia. Mamme minchia. E bisognerà fare una volta una puntata completamente dedicata ai gruppi WhatsApp delle mamme. Però è lì il minchia proprio esce fuori sovrano. È lì, è tosta. Come facciamo ad accedervi? Invitiamo subito i nostri ascoltatori e li inviteremo durante la puntata perché a fingersi donne e entrare dentro i gruppi, a mandarci tutti i link, le cose che ricevono, messaggi audio, roba del genere, perché poi nelle prossime puntate noi organizzeremo questa puntata, perché ho scoperto questi gruppi WhatsApp delle mamme sono terribili. Ma io faccio anche un annuncio personale a tutte le mamme che stanno nei gruppi. Venite da me. Se sono MILF, venite da me. Scusate, no, non era questo. No, se avete accesso a qualche cosa, screenshottate tranquillamente. Tanto noi nomi e cognomi non li diciamo assolutamente. Assolutamente no, censuriamo tutto come facciamo di norma, insomma. No, finte cose. Ci teniamo a fare questa cosa perché l'altro giorno qualcuno ci stava raccontando, Marco, non so chi. Ah, ce lo stava raccontando l'amico nostro Birraio. Ah, Birraio. Il nostro amico Birraio, che dice che questi gruppi delle mamme sono terribili, tant'è che, dice, questi bambini degli elementari dovevano andare in gita, le mamme l'hanno accompagnati fino a dentro l'autobus, e vabbè, questo ci potrebbe anche stare, anche se... Ma proprio dentro. Per esempio, l'autobus. Dentro l'autobus. Poi dice che quando questo autobus è partito, questi hanno continuato a mandarsi messaggi, oddio, che succederà, oddio, che sta... Oddio, fino a un certo punto, dopo, tipo tre quarti d'ora dopo... Una mamma nel gruppo, senza di incazza nessuno prima, ha detto: mamme, state tranquilli, stanno tutti bene. Perché li ho seguito l'autobus. Cioè, è una cosa veramente sconvolgente. Ma perché c'è gente che non ha bisogno di lavorare? Questo è il problema. C'è gente che non ha bisogno di lavorare. Mancano in questi gruppi le mamme stronze che dopo un po' che hanno le palle dire sono tutti morti. Così proprio per gettare il panico. Mamme, purtroppo devo dire. Ma sì, il problema secondo me è proprio il fatto che, e qui ritorniamo insomma in on fire proprio del Morti e Bestemmie, che gente che non c'ha un cazzo da fare e secondo me più lavori, proprio una puntata, un cazzo da fare perché noi proprio recentemente, sempre un altro aneddoto, scusa Alex, poi entriamo, ma vai tranquillo, tanto la puntata l'hai inventata tu, esatto, che praticamente recentemente ci siamo proprio detti rispetto a persone di cui non faremo né nomi né cognomi, che da quando ha iniziato a lavorare è migliorata persone migliorate da quando iniziano a lavorare, perché il lavoro nobilita l'uomo e anche la donna, e secondo me la noia amplifica, diciamo, tutte le turbe psiche. La noia diventa paranoia, ricordiamo. Alex, tu hai esperienze di queste cose? Sì, direi di sì, è terrificante, ripeto, c'è la gente che... ok, secondo me dovremmo fare una cosa, proprio adesso la dico in maniera un po' fascista, dovremmo fare una sorta di lobotomizzazione di massa, perché tanto c'è la gente già lobotomizzata di su, lobotomizziamole tutte, anche l'altra parte, chi se ne frega, cioè, ma che ben vengano le macchine che ci infilano il cavo nel culo come Matrix, perché ormai il livello è quello. A quel punto sì, no, ma sconcertato sta cosa della mamma che stalkerava il proprio stesso figlio. Ma io, nel senso che è entrata fino a dentro dove stava, cioè, capito? Che dire, ragazzi, sono scesi dal pullman. No, la cosa brutta era. Mi faceva la telecronaca minuto per minuto. No, cioè, purtroppo, no, purtroppo non sono potuto entrare. E grazie al cazzo, perché non dovevano entrare dentro il museo dove cacchio dovevano andare. Però tranquilli ci sono arrivati lì. Una cosa del genere. No, ma pensa che terribile. Con che gioia e con che rispetto del la propria professionalità, gli insegnanti, le maestre o quello che è, insomma, fanno il loro mestiere con genitori del genere. Ma sono, sappiamo bene non che è sono questo il niente, tema di questa insomma. Puntata, però. Esatto. Innanzitutto, ma potrebbe diventarlo. Potrebbe, ma perché possiamo, come cazzo ci pare, anche perché è la brutta scaletta della storia dei morti. Io infatti non capisco perché i Pizzi ha fatto questa puntata. Volevo parlare. Cioè, la mia idea era quella di parlare della gnocca. Guarda, me l'avete bocciata ed è entrata. La gnocca è delle palle. E c'è tanto da dire, perché cioè, poi non da morti di bestemmie, cioè se poi bestemmi la gnocca la gente pensa che c'è qualcosa. Bestemmiamo quella che non vale la pena di mostrare. Ah, allora non è gnocca, all'antignocca, l'antignocca, esatto. Cioè, senso, come la materia, l'antimateria, no, in realtà la bella che antignocca l'avete detto insieme, è stato bellissimo. Esatto, ed è bruttissima, cioè, questa immagine, questione, esatto, sì. E ci toccavamo anche, è ovvio. E no, volevo dire che praticamente intanto siete contenti che è tornato Morti di Bestemmia, tanto che mancavamo, e adesso Alex mi ha promesso che saremo più puntuali, cioè, nel senso, perché non prometterlo io? Non lo so, perché a qualcuno lo devo scaricare. Tu sei quello più serio, se lo promettiamo noi non ci chiede un cazzo di nessuno. No, anche perché veramente, cioè, nel senso che è lo spin-off che ha fagocitato e ha ucciso praticamente l'off. Qual è l'origine? Perché spin-off è la conseguenza, l'origine come si chiama? La spin. Siamo origine. Certo, origin off. Comunque, Carmine ci dice che lui ha dei gruppi dove si finge la mamma. E quindi vai tu manda sia testo che audio, chiaramente noi se nell'audio c'è qualcuno audio, che dice Francesca Rossi, noi chiaramente cancelliamo il Francesca e lasciamo il Rossi. Oppure cancelliamo il Rossi e lasciamo Francesca. Esatto, sì, forse è anche più sensato, diciamo così. E invece noi, insomma, recentemente, poi lo state vedendo anche in questo periodo, ci siamo detti, anzi veramente questa puntata è spin-off di se stessa, perché in realtà c'era tempo fa che tra le tante trasmissioni che noi volevamo, insomma, ideare per Morti di Bestemmia, no, per Runtime Radio, scusate, c'era il fatto di fare ogni lunedì mattina, ogni sabato sera, domenica sera, insomma all'inizio o alla fine della settimana, fare la rassegna stampa delle notizie più importanti praticamente della settimana politica e non politica, però visto sempre in chiave, insomma, di Morti di Bestemmia, no? E Marco ha detto intitoliamola la rassegnata stampa questo programma, ma questo programma non l'abbiamo più fatto perché non ci va veramente, non più impegnativo, cioè leggere leggere il giornale, ma che scherzi, cioè. Però quando l'abbiamo provato a creare questa cosa, un po' un minimo, insomma, ci siamo dati un'occhiata in giro e insomma, che non è detto che poi non la facciamo in un secondo tempo. Esatto. Quando ci licenzieremo dai nostri lavori, potremo fare questo a tempo pieno. Cioè, i giornali che voi comprate in edicola, come sapete, hanno i loro corrispettivi online, no? Ma già i giornali che comprate in edicola, insomma. Per esempio, una cosa che andava tantissimo quando ero ragazzino io, quando andavo a scuola, era il Messaggero. Il Messaggero, per chi non è di Roma, deve sapere che il Messaggero è un quotidiano che si finge quotidiano politico, serio, ma in realtà viene chiamato il giornale della suocera. Da socera, perché all'interno delle sue notizie, insomma, sono notizie. Ad esempio, voi dovete considerare che una parte importante del Messaggero è su tutta la parte necrologica, insomma, senza tutta la cosa dei morti, esatto, l'elenco dei morti e morti che poi voi considerate. In una città come Roma, quanti morti ci possono stare dentro al Messaggero? Tanti. E ci sono gli annunci dentro al Messaggero. Quegli annunci, quelli anche quelli zona mignotta, insomma, fondamentalmente. Quelli travestiti. Ma non nei necrologi, nei messaggi. No, non è. Perché nei necrologi lì si fa un'altra cosa. E c'è, insomma, leggiamo un po' di notizie che possono incappare, insomma, all'interno. Ma questa, tra l'altro, la stavo vedendo. Più che altro sono i titoli che mi interessano. Stavo vedendo su un telegiornale, perché questa è una notizia che è fine al telegiornale. Esatto, questa è una notizia che cioè sono quelle notizie che non esisterebbero se non ci fosse il messaggero, invece il messaggero gli dà risonanza e finiscono anche nel TG5 del tipo: a Roma, messaggero nella cronaca di Roma, a Trastevere i cartelli contro il degrado, ma anche il negrado, cercasi ragazzo che non si ubriaca e non si droga. Allora, bellissimo poi era vedere invece il servizio di, se non sbaglio, del TG5, dove c'era l'elenco e c'era ragazzo che non si ubriaca e poi a fianco c'era che non sniffa e che è stato saltata questa cosa del non sniffa ed è stato sostituito con il non grida, che era subito sotto, cioè, è bellissimo. Ma io che però non si può parlare di quello che non capisco, perché nelle tante mode che stanno nascendo oggi, giovani d'oggi, io ovviamente non le conosco perché ho perso da me contatto con la gioventù in quanto vecchio, io mi domando, ma è vera sta cosa? Perché cioè, no, nel senso, sono delle ragazze che vanno in giro per Trastevere e appiccicano. Ma no, penso fosse una provocazione, infatti sotto c'è scritto Trastevere per Trastevere. Ah, no, è un messaggio politico. Sì, ma no politico, diciamo social culture. Io invece mi immaginavo che c'erano queste ragazze, cercavano un ragazzo, vorrei un ragazzo veramente figo, cioè che non si droga. Che chiaramente è un messaggio talmente becero, quasi da Democrazia Cristiana, che non poteva essere. Probabilmente sono democratici. E dove poteva stare ovviamente una cosa del genere sul messaggio? Però aspetta, riprendi quella pagina, perché riprendi subito pagina. A fianco ci sono degli occhi, come si chiamano? Degli occhielli, come si dicono? No, come si chiamano? Delle cose accanto. Delle cose a cazzo, anche delle strelle accanto. Dove c'è moda, la sexy modella Charlie Howard e il lato B con la cellulite. Questo è il messaggero. Poi vabbè, c'è Roma. Fai il bagno nudo nella fontana di Tre. Questo c'era nel mio elenco. Che praticamente andiamo a leggere subito. Perché cioè, poi inizio che praticamente dov'è? Sotto. È quello sotto. Ah, eccolo qua. Troppo okay. Sotto. Questo è fantastico perché praticamente cioè, questa è la notizia da messaggero. Che anche questa l'hanno trasmessa in TV. Il tizio che si fa il bagno completamente nudo sulla fontana di Trevi. Che era collegata con quella dell'annuncio. Era tutto nel servizio, c'era tutto. Il potpourri c'era. Perché è tutto a Roma poi. È tutto a Roma. Sai perché? Perché c'è Virginia Raggi e quindi bisogna sparare merda. Il messaggero è un romano. Esatto. Se tu l'hai mai letto il messaggero, non è mai capitato, no? Perché? No. No. Dai, cioè, nel senso, è difficile qui a Milano leggere il messaggero. Cioè, perché dovreste, soprattutto? Cioè, nel senso, che vi frega delle notizie dei rieti, ad esempio. Ma poi questo qui che ha notato dentro ma la Roma fontana. Roma bestiale, vogliamo parlare di Roma bestiale. Ma questo che ha parlato, che ha notato dentro la fontana dei Trevi, qualcuno sa se ci ha anche pisciato dentro? Perché insomma, cioè, sicuramente. Uno ce lo fa. Ma allora, Alex, diciamoci la verità: la prima cosa che hai fatto dentro, cioè, la prima cosa che fai quando ti butti in piscina. Beh, non è che piscio. Cioè... Dai, ci fai la cacca dentro. Dai, vado in piscina. No, magari approfitto del movimento di aria per fare una scorreggiona che non si vede, ma non. Ah, ecco, dici che non si. Però si sente. Invece io mi ricordo proprio questa cosa. Io quando andavo non c'era, adesso quelle piscine pubbliche dove si andava a giocare, che era tutto perché era il giorno di andiamo in piscina, che figo, ci divertiamo, c'erano i scivoli e tutto quanto. Che a un certo punto girava la leggenda che dentro le piscine, mischiato nel cloro, c'era questo liquido speciale. Questo è ambiente. Che praticamente se tu pisciavi diventava tutto viola intorno. Sì, ma lo dicono ancora. Qui a Milano è rosso, non viola. Ah, vabbè, rosso. E quindi praticamente io una volta dovevo dire, perché quando stai in acqua dopo un po'. Cioè, te via da pisciare, insomma. È proprio un processo chimico irreversibile. E beh, dai, col fresco, col freddo, capito? Cioè, nel senso. È normale. L'acqua sta dentro l'acqua, molle. Si stappa proprio tutto e va. Assolutamente, vabbè, tutto è normale, in qualsiasi condizione, Marco. In ogni caso, però io che so uno che se la tiene leggermente di più, manco tanto, e alla fine cioè, e quando stavi lì, oddio, non la faccio più, non la faccio più, e in baffo al terrore del liquido rosso la facevi uguale, perché diceva, però ti fermavi lì immobile con gli occhi rigirati, sfidavi il destino. Ma al nord, no, se qualcuno si fa male nella piscina e comincia a sanguinare, tutti lo prendono per il culo perché ha pisciato. Esatto, almeno da noi era viola, quindi c'era la cosa intelligente. Invece da Alex, se Alex vedevano uno con tutto circondato di un liquido rosso, non pensava. No, da noi è diverso, perché da noi c'è lo squalo comunale che proprio, cioè, quando tu sanguini viene e ti ammazza, così ti evita l'onta del disonore della piscia. Esatto, quindi, esatto. Ora è morto, ma almeno non ha pisciato in piscina. Morto con onore, come un Klingon, non so. Comunque noi abbiamo scoperto recentemente, anche grazie al messaggero, perché il messaggero, attenzione, poi, anche questa che dopo strana, il cinghiale che sarà andato strana, in giro per la Tiburtina, e qui, che anche questa notizia era nello stesso identico fottuto servizio del TG5. Cioè, tutto quanto TG5 fondamentalmente, cioè, è fondamentalmente il messaggero, è della socia, è la versione estesa del messaggero, è sempre della socia. Va bene, e che prego. Roma, dopo i cinghiali, ecco il toro che gira libero alla fermata del bus. Ma stava prendendo l'autobus, cioè, però in effetti, cioè, non so se è fatta d'arte sta cosa o se è vero, però insomma è abbastanza inquietante. Beh, anzi, se tu vai a prendere l'autobus, vabbè, tu lo prendi l'autobus, tu sei macchinario. Beh sì, però ogni tanto mi capita di prendere un mezzo pubblico, ecco. Ma su Milano, a parte i ratti che ovviamente saranno anche lì perché sono ovunque, ma ci sono i territori? Non tanto, più che altro quando ci sono li fanno tutti passare, perché sono, sai, qui a Milano tendenzialmente dobbiamo tenere d'occhio due categorie: i tori e le vecchiette, che quando devono entrare sull'autobus proprio non guardano in faccia nessuno, ti tirano calci nei coglioni e entrano dentro. Devo dire che tra tori e vecchiette è una bella lotta, però ce n'è più di vecchiette che tori. E lì anche il toro, se tu ti fai la pipì addosso, diventa tutto rosso e ti si anche lì non scappi. Quindi c'è questo connubio, piscina, pisciata, pipì e toro, che toro, diventa, squalo, cioè, sarà il titolo del mio prossimo libro. Che poi tra l'altro non so, Alex, tu c'hai qualche versione del Messaggero milanese che vuoi anche... No, perché questa del turista è fantastica. Guarda, noi abbiamo qui nella zona del Rodense abbiamo il famoso 7 giorni, che sembra un quotidiano ma esce ogni 7 giorni e riporta anche notizie di cronaca, ma devo dire che è più sbilanciato politicamente che verso le suocerate. Per cui devo dire che l'approccio del titolo di giornale, quello scrauso, non ce l'ho mai avuto qua in questa zona. Siamo noiosi qui in Lombardia, lo so, siamo noiosissimi. Ma neanche con tipo giornali tipo Metro, questa qua, no? che alla fine quelli gratis che c'hai sotto la metropolitana. Che ma io non ci vado mai in metropolitana, per cui non li vedo queste cose qui. Perché hai paura del terrorismo, giusto? No, non ho paura di arrivare tardi al lavoro, per cui vado in macchina e faccio prima. Che è peggio del terrorismo, penso, a Milano. E comunque, perché questa è altra notizia da Messaggero, e come vi ricordate quando facevamo gli speciali sul Trono di Spade, noi dicevamo c'era sempre il morto del Trono di Spade da settimane. Il link è sbagliato, però comunque la notizia è questa. La morte più stronza. Questo vince la morte più stronza dei morti di bestemmie della puttana, che è brutto scherzare turista, esatto, però, è brutto, una cosa brutta. Turista vuole farsi la foto col boa, lo col morde cobra, col cobra lo morde e poi muore, cioè tu lo faresti subito. Sì, la prima cosa che faccio quando non si attende è fare un selfie, è una cosa normale. Sì. Alex, tu c'hai mai avuto esperienze con cobra? Con cobra, perché cobra non è un serpente. In quel senso di esperienze non ne ho avuto tante. No, ho avuto tante esperienze con i pitoni, che però non sono velenosi, ma per cui non era un grosso problema. Ho girato uno spot televisivo con i serpenti. Sono molto simpatici. Devo dire che ho accarezzato i pitoni e fanno un effetto strano, perché la pelle non è viscida, proprio sembra pelle umana. Se tu non tu chiudi gli occhi, sembra di accarezzare il braccio di qualcuno. Bene, non distruggo Milano, probabilmente. Cioè, ma sono addestrati, come funziona? Scusa, no, beh, no, tendenzialmente li metti lì, aspetti che e fanno quello qualcosa. Il cazzo di fare a loro. Esatto. E tu riprendi per ore e ore fino a che non c'hai quelle tre cose. Esatto. Che fatto, eh? Esatto, esatto. Io pensavo fossero addestrati in qualche modo. Ma poi non credo che si possa addestrare un po'. È poi come addestrare un pesce. Però, vabbè, sapete, insomma, di questa tristissima cosa che sta succedendo in questo periodo, dove c'è questo qua che ha ammazzato uno per una rapina e poi dopo, fuggendo, sembra che e abbia ammazzato anche... caccia all'uomo. Esatto, c'è la caccia all'uomo, quindi... Però questo è qui da giornale, caccia all'uomo. Perché chiaramente c'è caccia all'uomo, che è oltretutto... Caccia all'uomo. Caccia all'uomo. Ma che soprattutto... Oltretutto anche serbo croato, quindi... Perché c'è proprio il clou, poi nel nord, capirà. No, esatto. Ma il bello è che c'è la... cronaca della caccia all'uomo. Esatto, esatto. Perché poi adesso ci sono più di 10.000 agenti coinvolti. E la cosa bella è che io ieri ho sentito su Radio Capital una cosa fantastica. Perché io poi mi stupisco, perché io vedo le cose sul Messaggero e dico, vabbè, queste sono cose da Messaggero, chiaramente. Perché poi dopo, come abbiamo detto prima col TG5, in realtà anche le altre emittenti le riportano. Tipo, che so, Radio Capital, che intervistano il tizio che è stato in cella con questo tizio, con questo assassino, che poi non si è capito ancora come si chiama. C'ha 3-4 nomi, tipo, sì, Alex, Igor Sbrasbani, Igor qualche cosa. Forse a Yei e Brazzo. Allora, però, intervistano sto tizio con la voce camuffata che abbiamo fatto noi Sì, guarda, io stavo con Igor dentro la cella, brutta sensazione, perché Igor, insomma, quello mazza. La cosa bella è che dice, no, perché io recentemente l'ho sentito e lui su Facebook mi ha scritto sta cosa qui. Cioè, c'è carino. Ma volete leggere il primo commento a questa cosa? Scendi, scendi, scendi, andiamo giù. Quello di Il Mago. Il mago dice: Igor non ha fatto il militare perché era disoccupato e meridionale. E lui che ne sa? Lo prenderanno sicuramente, ma non per merito, ma perché alla fine tutto finisce, anche la vita. Io gli metto chi è sto matto? Ma poi che ne sai anche il tuo? Vabbè, comunque, e niente, anche il messaggero ha trovato il tu allora se non testimone... vuoi fare nei paesi dove c'è la leva obbligatoria, se non vuoi fare il militare basta che tu sia disoccupato, è normale, no? E vieni al... però devi venire dal sud, è vero che c'è, cioè, nel senso di sta gente non sappiamo niente, quindi veramente la stampa se vuole mettere qualsiasi cosa e possono morire bestemmie. Ma io quello che voglio capire, cioè, nel senso, perché andare a cercare persone che poi li puoi, cioè, può essere chiunque, no? Nel senso, può essere un articolo falsissimo questo, no? Come quello che ti ho detto, cioè, la voce camuffata, cioè, no, perché su Facebook mi ha detto poi ci rivediamo un giorno. Ma se tu hai la voce camuffata e sei camuffato, no? Mannaggia a te che devi morire di bestemmie e vai a dire una cosa che è riconoscibilissima, che te l'ha scritta lui a te, cioè, sei un cretino, insomma, fondamentalmente. Vabbè, questo volevo, non so se condividete la pubblicità. Assolutamente, bisogna essere no, noi condividiamo. Sentite, io però devo interrompere un secondo, perché nel gruppo di WhatsApp degli amici, della gente conoscente che ascolta Morte di Bestemmie, c'è un nostro ascoltatore che si chiama, vediamo, si chiama Gualtiero La Pacchia, che non riesce ad arrivare ad ascoltare la trasmissione perché è nel traffico. Ci ha mandato un messaggio vocale, un secondo, eh. Mi sono rotto il cazzo, io voglio andare a casa, voglio andare solamente a casa, fatemi andare a casa, figa, è un'ora che sono fermo sulla stessa striscia tratteggiata del cazzo, figa. Ok, come vedete è un messaggio terrificante, forte, di una persona, forte, di una persona forte, in disperazione. Sì, disperazione. Forse era il caso di camuffare la voce anche noi, così per darci un tono. Ma possiamo fare la nostra? Sì, facciamo il suo camuffolo nostro. Allora, come si chiama? Gualtiero? Il Gualtiero La Pacchia. Gualtiero, noi siamo tutti con te. C'è una brutta situazione, è capitato anche a noi, ma poi se ne esce. Dico, è una cosa che mi hai scritto su Facebook. Il coraggio che poi se ne esce, insomma. Vabbè, noi non abbiamo detto niente. Sicuramente. Siamo stati noi. Comunque, Gualtiero, sai bene dove stai. No, mi dispiace, veramente, umanamente lo capisco, però non possiamo, la vita va avanti. Guarda, in altri tempi ti avrei detto diventiamo amici. Ecco, questo dico soltanto questo. Però poi, insomma, oh, c'è il resto del Carlino. Adesso del Carlino, che è un giornalissimo, cioè, nel senso, era il giornale dei Monti, questo addirittura. Pensavo. Ma proprio quello che ce l'ha messo al culo più Monti, di una volta. Esatto, ma dai. Era il giornale dei Monti, perché Monti lo comprò dicendo che per controllare la politica bisogna controllare l'informazione. Assolutamente, una cosa falsa. Infatti, il resto del Carlino, tu ti ricorderai, Marco, quando siamo nelle Marche, di solito fuori dalle edicole ci sono quei tre piedi, no, con le notizie tipo suocera sputa nella pasta e fagioli con le codiche del nipote, tragedia, no, spesso ci sono anche suocera sputa mettono tutto insieme, suocera sputa nel piatto del nipote, aspetta tre gemelli, perché magari un'altra notizia non mettono tutti insieme, che, tu che cazzo sta succedendo, per mentre qualcuno li ha buttato, e ci sono anche però le notizie tristi a Ravenna, tipo, che ne so, perché il resto del Carlino è Marche, Umbria, tipo, per esempio, questo lo dovresti conoscere, Alex, a Milano Marittima ci sta sicuro, ma io non vado a Milano Marittima. Non vai a Milano Marittima, scusa, non è a Milano Marittima. No, sì, c'è proprio il tunnel da Milano a Milano Marittima, bello, esatto, per vantarsi di avere il mare, quello del CERN, e ci sono brutte notizie, questa è brutta davvero, io non so se Ravenna non vuole portare il velo e fugge da casa. Brutta, cazzo. Sedicenne chiede aiuto, soprattutto sedicenne chiede, tutto attaccato. Aiuto alla polizia, indagine in procura per maltrattamenti a carico di madre e fratello marocchini, tutto attaccato. Vedi, però questo è importante, che, cioè, nel senso, rimarchiamolo che sono marocchini. Insomma, chi va, cioè, giustamente, se no. È il modo, insomma. Non vuole mettere lo zucchero a velo, allora viene, fugge la casa. No, ma soprattutto ce l'ha la stampa questa. Anche lei scrive. Non voglio mettere il velo. Prendiamo in giro questa povera gente. Proprio recentemente pure a Roma è successo qualcosa del genere, tipo che gli hanno tagliato i capelli, che sono arrivati gli assistenti sociali e gliel'hanno levata ai genitori, sì, perché hanno rasato a zero, esatto. Allora, e c'è stata poi, perché poi noi quando leggiamo questi giornali scopriamo anche dei luoghi, dei paesi che altrimenti non conosceremmo, tipo, che ne so, Gambettola. Gambetto. Vogliamo dire cosa è successo a Gambetto? Sottrae i figli e la moglie e scompare per giorni. Praticamente ha fatto una sottrazione. Moglie meno figli uguale. E poi ha scherzato. Però il risultato è zero. Zero, assolutamente zero. No, è uno, è uno, è uno per giorno. Uno, perché poi questi sono quel tipo. Quindi di c'è pure la moltiplicazione, esatto, per giorni. Tipo di sottrazione, cioè, che alla fine cambia risultato a seconda dei giorni. Esatto, perché cioè, devi sottrarre i figli, esatto, dalla madre e moltiplicarla per i giorni. Poi non sappiamo neanche qual è il fattore. Cioè, perché c'è l'X. Però alla fine, attenzione, che alla fine del link c'è un numero che è 1.303636804 che sia la soluzione di questa operazione. Non so, che bello. E niente, vabbè. Ah, questo è fantastico, perché questo qui c'è l'orgoglio nazionale che si spinge oltre l'orgoglio nazionale, c'è il campanile, proprio c'è l'orgoglio cittadino, quasi l'orgoglio di quartiere, perché c'è questo operaio che vince 2 milioni e la prima cosa che dichiara: non lascerò mai Fabriano. Cioè, ci viene a dirlo, capito? Cioè, nel senso, con due milioni di euro non è che puoi comprare, che ne so, le Figi, insomma. Però cioè, puoi comprarti una casa a Tenerife. Finalmente posso realizzare un sogno. Oh, posso comprare quel negozio a mia figlia. No, non lascerò mai Fabriano. Però lui fa tutto a Fabriano, giusto, perché i soldi lascia in Italia. Secondo me è una questione amorosa. Cioè, lui non vuole lasciare il suo amico Fabriano. Oppure che sta cercando di cambiare sesso, perché è il Fabriano, la Fabriana, non si capisce bene. La Fabriano. No, potrebbe essere questa. Vi racconto una cosa che risale al 1987. Se sapete che intanto devo raccontare queste mie cose. Ed ero in Nuova Zelanda e mi intervistò il telegiornale nazionale. Poi vi spiegherò un giorno perché. E praticamente c'era anche la caccia all'uomo. C'era il tizio che mi aveva chiesto: insomma, vabbè, come stai? Io sono abbastanza bene, sono abbastanza contento e basta. Ci dovrei ancora che si da qualche parte. La traduzione era: I'm well, I'm happy, and thank you, New Zealand. Che bellissimo. Che non l'ho mai detto, ovviamente. Però insomma, è bello perché questo giornalismo patriottistico, capito, che butta dentro. Lui ha detto: non lascerò mai la casa. No, non lascerò mai Fabriano. Oppure Fabriano. Ma l'intervista che ti fecero era: thank you, New Zealand, motherfucker. C'era rivolto verso di te perché non gliela avevi, ma rivolto verso di te perché non li avevi ringraziati. Comunque, ringraziamo la Nuova Zelanda e l'Australia per quello che stanno facendo. Ma siccome si vede che non ascoltate MDB Summer Radio, perché le nostre ascoltatrici, c'è una mia ascoltatrice che è andata a fare l'Erasmus in Australia e l'Australia le sta facendo molto bene. Il video che sta pubblicando, ho detto: ehi, tanta roba, yuppi. Niente, facci vedere pure a noi. Sì, ho fatto una cazzata. Però potresti mettere il video con la voce camuffata. Esatto. Tranquillamente. Il video camuffato. Vabbè, Alex, dici qualche notizia tu, perché a noi ci si è chiuso il documento e presto. No, ok. Mentre entra gente in studio. Questo è bellissimo. Busta di minacce con carta igienica usata al figlio di Poletti, ex vigile nei guai. L'uomo, un 71enne milanese, è indagato per la singolare lettera minatoria. Interessante, perché era una lettera che poi puzzava, secondo me. Certo, usata come? Davanti di Dio. Non ci spiega. Andiamo a leggere l'articolo, perché questa è una cosa che... alla busta, eccolo qua, l'ho trovata. Scusate, perché mi ero un po' perso. Perché a noi quello che ci interessa capire non è tanto il dramma dietro questa storia, no? Quello ci interessa come era stata usata la carta. Esatto, la carta igienica. In che senso usata? Usata per scrivere o usata che nel senso che era sporca? No, era sporca di merda. Scritto così: carta igienica imbrattata di feciuli. Cioè, sporca di merda. Ma che schifo, cioè. Perché? Cioè, perché non lo so. Allora, questo il ministro, cioè Gennaro Poletti. L'autore della infelice frase sui cervelli infusi in refuga, in realtà ha detto una grande, una sacrosanta verità: che i curriculum non li legge nessuno, non ha senso mandarli, ha più senso fare relazioni dirette. Che poi gli dice: giocare a calcetto è più produttivo. È terrificante, ma è vero. Io sono con lui, è terrificante, ma è vero. Forse la cosa andrebbe un po' cambiata, ma è una questione di mentalità. Non è che il sistema paese oppure il governo devono interferire in questo, non credete? Non lo so, non mi hai seguito, ma che se ne frega. Assolutamente. però io direi di sì. Il sistema paese è importante, ma io non ho capito, cioè, veramente mi sono perso un attimo. Allora, chi è che ha mandato sta busta? Un 71enne ex vigile milanese, un Ghisa. Al ministro, al ministro. Cioè, al ministro. No, al figlio del ministro. Ah, ecco, ok, perché sennò non mi spiegavo come potesse poi arrivare sta busta de merda al ministro, insomma, cioè, ci saranno dei filtri, voglio sperare. Dopo famoso abbiamo filtrato 6 buste di merda oggi. Il famoso filtro che è costato 40 milioni di euro in subappalto, bellissimo, mi piace. Vabbè, comunque sono anche razzista. C'è anche razzismo. Anche il razzismo. Rimini, aggressione razzista. Emanuel, ditemi cosa mi è successo. Che significa, scusa? Perché ha perso i sensi. Poverino, ha perso i sensi. Le prime parole del ragazzo nigeriano accoltellato da un folle lo scorso 22 marzo a Marina. Oggi si è svegliato. Ha detto: che cazzo è successo? Giustamente. Ma è stato un coma questo. È stato un coma. Mortacci, lo sempre in giro, stai quasi. È stato un coma. Ditemi dove sono e dove cosa mi è successo. Sono le poche frasi confuse pronunciate da Emmanuel Numani, il 25enne richiedente asilo nigeriano, che batteva bandiera. Vabbè, dai, ok. Però, dopo qualche esitazione alla domanda how are you, ha risposto I'm fine, thanks, thank you New Zealand. Vabbè, comunque, allora, poi per esempio in un giornale come Resto del Carlino, che si occupa ovviamente di una zona territoriale ben precisa, per esempio c'è una rubrica che si chiama cosa fare, quindi tipo cosa fare nella nostra regione, e allora ci sono le 5 spiagge più belle del Salento, che c'è un po' di confusione tutto questo. Però la cosa veramente più divertente, poi lascio a Marco, insomma, perché anche lui ha della roba, che il piccolo di Trieste, che ovviamente come tutti i triestini è piccolo, è pragmatico, insomma è una persona seria, una bella, c'ha però una sezione del giornale completamente dedicata agli incidenti stradali. Questo per i feticisti del crash test, cioè bellissimo. Perché, cioè nel senso, anche con, che so, vogliamo prenderne qualcuno a caso. Scontro tra due tir allo svincolo di Cattinara, ferito uno dei due conducenti, dice Jack. Vedi, attenzione, vedi. Qui dalla regia ci suggeriscono che, essendo Trieste la capitale italiana delle assicurazioni, forse c'è questo. Ma quindi bisogna schiantarsi per forza. C'è qualche incidente divertente, insomma. Tipo camion si ribalta in superstrada all'uscita Patriciano, due feriti all'ospedale. Vabbè, dai, insomma, tutto sommato va pure bene col camion. Questo tragico incidente, tragico incidente in autostrada a Ronchis, finisce contro un pilone. Sono cose brutte. Ricordiamo tra l'altro un incidente brutto che abbiamo visto io e Marco Gualdi dalle parti di Cagli, dove praticamente c'era questo camion completamente ribaltato che era andato a finire dentro un fosso, e la cosa è veramente inquietante. Era lo sciagallaggio. Era tutto lo sciame di gente che scendeva giù per sto fosso per andare a rubare generi alimentari che non lo usciti fuori da sto camion. E lo sai che cosa gridava? I'm fine, thanks. Thank you, New Zealand. Era bellissimo. E mangiava come un disperato. No, è terrificante questa cosa. Questo è veramente. Infatti, io vedrei giusto un altro incidente, ma perché sono cose molto brutte. Questo è terribile. San Canzian, motociclista muore carbonizzato nello schianto automoto. Quindi, terribile. Vabbè, brutta storia. Ma c'è gente che li legge questo? Sì, voglio. Poi vedi, insomma, che sono pure belli dettagliati. Sì, sono tipo 1500 pagine. Poi la città, cioè, forse è anche la capitale degli incidenti, probabilmente. Vabbè, comunque qualche volta. Marco, io direi che ti posso anche. A meno che non abbiamo ricevuto qualche altro. Sì, c'è. È arrivato poco fa un altro messaggio vocale. Perché io infatti ho sentito il bling. Facci sentire. Ora andare tutti a fare in culo! Mi sono rotto il cazzo! Non lo so, manda messaggi così, lui si è rotto il cazzo di stare in coda. Io continuo a dire, insomma, è drammatica. Guarda, veramente io non vorrei essere in una seconda, perché poi alla fine se male, c'è tutta la solidarietà per botte, veramente. Quantino sono con te. Quasi condivido la sofferenza, proprio. Quartiero Rossi, veramente. Ma la Gualtiero la pacchia. La pacchia, fantastico. E ora io do un'occhiata un attimo alla chat, non mi pare che ci sia. No, no, carne, sono morti tutti. Esatto, stasera non ci siete, ci avete abbandonato, ma la pagherete, la pagherete. No, io. Perché potreste finire in uno dei delle colonne del mattino, del piccolo. Esatto. Marco, è brutta cosa che hai detto, guarda, cosa più brutta di quello che dico io normalmente. C'è lo sport sul quotidiano. Ah, c'è lo sport, è vero, perché il quotidiano del sud, è vero, c'è lo sport che fai, non ci lo metti lo sport, perché insomma, lo sport è importante. Marco, guarda, qui perché questo so altro che il Barcellona, Juve, la Champions, sti cazzi, no? Cioè, qui stiamo a parlare di cose serie. Dopo la Serie C c'è veramente il clou dello sport nazionale, cioè proprio l'orgoglio e il fair play nazionale. Il punto sulla Serie D, c'è la D. Giornata di scontri diretti in Serie D. Rende a Palmese, serve una prova di forza. Ma che notizia di merda? Ma sì, no, ma poi, cioè, no, aspetta, leggiamo le squadre. Allora, leggiamo i risultati della giornata. Allora, cioè, Aversa, Normana, Palmese, che è 2-2. 2-2, è ok. Pomigliano, Samese. E Pomigliano ne ha fatte due. Castrovillari, Frattese, 2-2. Poi c'è Vigela, che vince contro il Rende. Allora io però vorrei dire che questa cosa, a questa partita qui sono stati gli incidenti, io testimone degli incidenti, ho visto che i sbirri che se la prendevano con gli ultras, noi eravamo tutti bravi e figa, sto cosa a tratto. Adesso non si fida, non fa le cose che parliamo con la Santo Romano, però questa è tutta la mossa, le quasi. Tranquilli. Vabbè, dai, se poi vabbè, se vi volete un suggerimento, ma questo purtroppo probabilmente non potrete mai farlo dal punto di vista cartaceo, a meno che non siete di Roma, c'è il fantastico Portaportese, che è un giornale storico a Roma, che è un giornale solo di annunci, e oggi esiste anche in versione telematica, se andate insomma cercate, e io penso di aver visto, cioè, le peggio fregature, le peggio patacche del mondo vendute, compreso io, cioè, nel senso. E mi ricordo, no, una cosa fantastica di un mio amico che cercava un ciao, forse l'avrò già raccontata sta cosa, ma no, la riracconto. Ma chissà dove l'hai raccontata. Che c'era questo annuncio, vendesi ciao come nuovo a 500.000 lire, così butto. L'amico lo chiama, gli dice: ah, senti, io sono interessato al ciao. Ah, sì, è come nuovo, è già disponibile quando vuoi. Ma di che colore è? Sì, perché di che colore lo vuoi? Avete capito? No, dai, se sono stato acuti, avete capito? Se lo scusa, di che colore ce l'hai? Perché di che colore lo vuoi? È bellissimo questo. Guarda che sottile, ma dopo che la caduta per fortuna poi non sto attenuto, ma perché, di che colore lo vuoi, scusa, comunque adesso non lo vado a rubare le vere notizie, perché dai, ci sono le vere notizie, cioè quelle che normalmente vengono passate in guarda, se l'apri tu perché io non riesco, cioè, cos'è che non riesci a fare? Devi cliccare, ecco, clicco. E oh, finalmente sì. È un bambino spastico, non è che... Queste sono le vere notizie che dovrebbero andare in prima pagina. Su Repubblica. Segrate, spese pazze in comune, sì, sì, sì. Convegni sugli alieni e pranzi di piacere. La Corte dei Conti processa l'ex sindaco. E questo è pure vicino a Alex, quindi Alex, questa notizia dovrebbe essere viva dentro di te. Beh, in effetti... Ma poi Segrate dove c'è Milano 2, giusto? Che ne so, Segrate... Segrate di solito è vicino. Lo saprei meglio di me, insomma... Segrati piano 2, sì, ma ci sta, è zona di gente che spende, spese pazze. E quindi, infatti, stavo per dire che è la zona di Berlusconi, infatti è eletto con Forza Italia l'amico. Beh, no, cioè, e quindi praticamente questi qua fanno i convegni su alieni. Il convegno Figli delle Stelle, meeting internazionale di esobiologia, due cazzi. Esobiologia, sarebbe Marco, ovvero la ricerca di forme di vita extraterrestre. Ma fanno il convegno o cercano? No, è un convegno in cui si parla, è poi come se uno fa un convegno su Star Trek, diciamo, le cose del genere. E se fa pagare, e se fa pagare dal comune, cosa c'è di strano, insomma? No, però mi pare che ce ne sono altri. Aspetta dopo, questo aspetta, guarda, questa è sempre Repubblica, attenzione, sempre Repubblica questa è sempre la stessa notizia, UFO bufera sul comune per il patrocinio culturale. No, questo sì però è un altro comune, è a Genova, questo, perché è successo pure a Genova. Allora, cioè, ma sì, gli alieni esistono. No, perché tipo roba 5 stelle anche questo, nel senso che hanno fatto adesso, il convegno su... Adesso ci sarà quella sugli altri, sull'altra verità sui vaccini, insomma. Sì, poi è veramente, cioè, poi dopo. Ufo, bufere, perché comunque questa è un'altra città, no? Cioè, sì, tu dai, mi fai vedere sempre le stesse. No, stai sempre cliccando sulla stessa. Vabbè, ma io lo sai che questa distanza sono terribile. Allora, uno qua. Facciamo una sorta di colletta spirituale. Regaliamo un corso a Pizzi e a Marco per imparare a distanziare Link di almeno uno spazio. È vero, hai ragione, è colpa mia. Questa è una notizia importante perché, allora, voi sapete che nonostante questa trasmissione si chiama Morti di Bestemmie, noi in realtà poi un minimo di spiritualità ce l'abbiamo. Esatto. Quindi noi crediamo alla spiritualità, agli spiriti soprattutto. Sì. Li bestemmiamo anche. Non saremmo stati dei fan di Ghostbusters. E quindi parliamo di fantasmi. Veniamo da una testata autorevole che è Meteo Web. Tutti sappiamo come sia. Scienza, i fantasmi esistono davvero? Scienza. Oh, questa è scienza. Questa è importante perché non sono ectoplasmi, ma sensazione di presenza. Bello. O di assorbimento. Presenze tra virgolette, tra l'altro. Esatto, presenze. E qui Marco, se ricordiamo, fai sentire la presenza. Esatto. Scusate, i fantasmi esistono solo nella nostra mente, ma ora gli scienziati, famosi scienziati, sanno esattamente che dove sono trovarli. Gli stessi enigmi alieni, eh. Esatto. E anche come riprodurli. Cioè, questi fanno i fantasmini, li riproducono. È lo stupefacente risultato con cui è giunto uno studio del team di Olaf Blanke dell'Ercole. Dell'École Polytechnique Fédérale di Lausanne. In Svizzera, quindi se è svizzero uno ci crede. Ma poi mette qualsiasi nome, tanto non lo saprei mai se è vero. Quindi. Di cui fa parte anche Giulio Rognini, giovanissimo cervello italiano in fuga, chissà perché. Anche qui, anche qua in fuga, tra virgolette, tra l'altro. Ecco. Che se lo chiappano gli meno, dicono giustamente. Anche l'alpinista Reinhard Mester, il 29 giugno del 70, ha avuto un'esperienza mistica. Cioè, visto il fantasma. Che stava scendendo dalla cima del Nanga Parbat col fratello. Che ti ride, il Nanga Parbat? Parbat. Mentre erano congelati, esausti e affamati di ossigeno, ha detto di aver visto improvvisamente un terzo alpinista con noi. E certo, in carenza d'ossigeno poi vedi anche la Madonna, insomma, infatti. Però cosa succede? Ma io direi di andare avanti. Il bello di questa pagina è che cominciano con un dipinto di un fantasma spettrale brutto e poi finisce con uno spermatozoo tipo con degli occhi, cioè una cosa terribile, cioè un degradarsi della qualità, cioè l'uomo un fantasma agghiacciante, l'uomo col lenzuolo addosso, una macchia bianca sul nero e poi lo spermatozoo, cioè una cosa terribile. Vabbè, andiamo avanti, questa cosa dei fantasmi è importante, nella stampa italiana trova a riscontro poi chiaramente, perché non è che finisce qua. Corriere della Sera. Gli UFO nei rapporti dell'aeronautica militare, sfere e dischi, 10 avvistamenti in 2 anni. Hai capito? Quindi è stanno, vero. Dove stanno? Alex, pure la l'aeronautica militare vuol dire che ci nascondono. Vabbè, ma ok, posto che io ci credo agli UFI e alle scie chimici. C'è da dire che UFO è oggetto volante non è identificato. Qualsiasi cosa che uno non capisce che cazzo è. Che cazzo è quello? Sarcazzo è un UFO. Perché ci sono quelli volanti identificati e quelli volanche non identificati. Come disse McCoy appena risalito sull'Enterprise nel film The Motion Pictures, perché qualsiasi cosa che non conosciamo chiamiamo cosa? Come la chiamiamo? Cosa? E tu rispondi cosa? Cosa? Comunque sì, questo bellissimo articolo preso dal Corriere in cui ci svela che l'aeronautica militare ha c'è una foto vera. Assolutamente vera di una bajur, questa è una plafoniera come ma no, questa è tipo una plafoniera e poi c'è lo spazio, una cosa presa proprio direttamente da UFO Project Shadow, mi sembra UFO, UFO ci sono le cose. Sì, che poi tra l'altro lo dice perché mo adesso ci sono pure le questo ce l'ho un bottone degli astronauti che hanno visto gli UFO quando andavano sulla Luna, certo, sì, assolutamente tutti vedono gli UFO, vabbè, morti noi, bestemmie, noi vediamo UFO. Focus Junior. Esatto, attenzione, anche questi. Qui c'è la domanda. Qui c'è proprio. Esistono i fantasmi? Una nostra lettrice si chiede se gli spiriti esistono davvero o no. Su Focus. Una volta c'è una bambina che ha scritto a Focus: ma esistono i fantasmi? Vabbè, a parte che commenta: non sono quella lì che ha paura dei fantasmi, ma te lo volevo chiedere perché è una domanda che mi viene su fin da quando avevo 5 anni, quanto ne avrà adesso? 6, 7. Spero che mi risponderai. Favij J grande e potente. Cioè, questo squalifica qualsiasi intervento di questa ragazza. Adesso c'è scritto qua. Il capitano risponde: ciao, grande e potente Favij J. Subisci il fascino dell'occulto e del misterioso, anche io. Infatti, a volte mi piace. Questo si firma con Favij J, grande e potente. Questo sarà un paura che risponde. Sono un duro costoso perché il capitano si tiene. Ma io, capitano, non ho detto niente. Anche io, infatti, a volte. Scusate, perché devo uscire anche perché cazzo c'è scritto. Ciao, grande e potente Favij J. Già qui una pubblicità che subisci il fascino del culto del misterioso? Anch'io. Infatti a volte mi piacerebbe avere una rubrica ad hoc per parlare di questi argomenti. Ma tipo, puoi farlo qui con noi a Runtime Radio. Esatto, e parlare di tutte le minchiate che vuoi. Poi c'è scritto anche c'è la spiegazione di che cos'è un fantasma. Quando è nato il mito del fantasma? Che cos'è un fantasma? Ma sarà questa immagine, che cos'è, Alex? Un fantasma. Questa è l'immagine di Assassin's Creed dopo che ha usato la candeggina. Ah, ecco. Comunque sono indica aspetti, ectoplasmi, apparizioni, anime erranti e figure diciamo figure interne. Mi vedi a vedere la parola ectoplasma che cosa sono. No, sarà quello. Cioè, quanto fa 10 ectoplasmi? Mi sembra che una cosa del genere. Un applauso digitale a questa battuta. Grazie, grazie. Esistono apparecchi per percepire e catturare fantasmi? Certo, come no? Ci sono le trappole, ci sono i protonici. C'è l'ectoplasmodo. Ma teniamo un velo pietoso su Focus Junior. Che vabbè, che sei Junior. Ma non so, ma poi ho visto che c'è lo stesso articolo anche su Focus non Junior. Cioè, quindi questo è quello normale. Esistono i fantasmi. Con un'enfasi da sempre, ogni cultura crede negli spiriti, cioè, vedi. C'è anche tu un capitano. Sei proprio avvelenato su questa cosa dei fantasmi. No, è solo il titolo, uguale, ma adesso ne parlo un po'. Qui 21 allora, grammi. Qui è un po' più desisi, qui è un po' più dettagliato. Non c'è il capitano, non c'è il fantasma. Io direi che può bastare così, insomma, per le mie notizie. Cioè, no, c'è l'ultima cosa che è da un altro sito che è molto onorevole: Paranormal Zone. che è uno di quelli che ti ha 9 prove inquietanti. Prove inquietanti sull'esistenza degli alieni che confermano che non siamo soli. Ma leggiamo queste 9 prove. Allora, la ruota dentata. Numero 1, la ruota dentata aliena della Russia. Ma che cos'è? Che su guarda un sasso. Una pietra, una scista. Questi, però, devo dire che mi hanno sempre affascinato. Le linee di Nazca. Questo, devo dire veramente che da quando ero ragazzino un po' ti intrippa. Intrigante, ma quelle sono uno dei grandi misteri. Mistero. Le teste di pietra del Guatemala. Pure questa è abbastanza inquietante. Sì, però non vedo perché se fa la pietra gigante. Ma la non lo sapevano fa sto cosa. Sì, no, solo gli quindi sono stati gli alieni. Gli oggetti volanti o vimana dell'antica India. Sono disegno del cazzo, pure quest'altro. Poi c'è tutte le popole di Gibbon uscite, che sappiamo bene che è un alieno. Che può diventare Giglamesh. Poi ritratto di UFO in opere d'arte antiche. Ci sono due, eccolo qua, quella palla. Questo è lo Sputnik. È lo Sputnik, esatto. Sono togliente nello Sputnik. L'equazione di Mandrake. È un'equazione. Questa però la leggiamo perché. Ah, l'equazione di Drake è quello delle civiltà. Quella equazione che fa la parabola delle civiltà. No, non c'ho idea. Comunque, l'equazione indica la possibile esistenza di diversi pianeti con vita intelligente. L'equazione prova statisticamente che devono esistere centinaia di migliaia di pianeti adatti ad ospitare la vita dell'universo. Il paradosso Fermi pone una questione, ossia che se nell'universo ci sono così tante civiltà intelligenti, allora perché c'è una mancanza di prove fisiche che possono dimostrarlo? Perché sono lontani. Sono lontani. Lontani. Certo. Ce lo spiega Einstein, perché non si può andare più di poi ci sono. Tu lo sai, no? No, Alex è andato. Cosa? Alex, stavo leggendo il punto numero 8. Che UFO avvistati da astronaut. Esatto, cioè, vabbè, si sono mangiati qualche caratteri. Oppure astronaut è un'associazione, non so. E poi c'è il segnale wow. Questo devo capire cos'è. No, so. Che cos'è il segnale? Nel 1977 viene captato un forte segnale dal radiotelescopio Big Ear, proveniente a quanto pare da una parte vuota dello spazio. Il segnale non proveniva dalla Terra e, siccome non c'era una stella vicino al punto di provenienza, si pensa che esso abbia origine extraterrestre. Allora, te lo spiego io com'era, che si stavano a sentire la radio. Sciorco! E ho detto, ho sentito. Vabbè, queste sono notizie un po' così. Vabbè, sì, dai, non sta facendo ridere questa cosa degli alieni. Assolutamente, gli alieni ci hanno rotto le balle. Però bisogna parlarne un'altra volta. Gli alieni ci hanno rotto le balle. Ho trovato delle cose interessanti oggi mentre li cercavo. Sì. Hai trovato gli alieni proprio. Ho trovato loro. A proposito di alieni, abbiamo un aggiornamento da quartiere. Sì, ecco. Aspetta che non ho collegato. Sono uscito che c'era ancora il sole e sta tramontando, signori, che spettacolo. Tutto il tramonto mi sto gustando. Qual toppe. Qui, non lo so, top è una cosa che dicono qui a Milano, eh? Quando una cosa è figa è top. Vabbè, ah, sì, è top. Una cosa che mi fa cagare. C'ha le toppe, una cosa del genere. Ma io però vorrei dire una cosa, perché... Allora, innanzitutto sempre esprimendo la mia curiosità di no, questo quartiere, perché insomma non posso fare altrimenti, no? Però quello mi risponde qualcuno, no? Oppure lo lasciano parlare come un uomo solo nel nulla. No, cercano di interagire con lui dicendo dei messaggi vocali normali, nel senso, ma raccontali qua, lui ormai è partito per la tangente. Ok, bellissimo. Secondo me lo lascerei a... Io lo porterei in trasmissione adesso. No, adesso vabbè, stiamo raccogliendo i suoi messaggi di soccorso. Poi ci interessa. Vai, Marco, ci interessano davvero questi messaggi di soccorso. Comunque, in ogni caso, io sono andato su Repubblica. Che ho trovato. Sì, perché sempre su Repubblica. Mi andare su Repubblica. C'è questa notizia, attenzione, molto pasquale. Perché se Berlusconi d'Arciuccio a praticamente spegniamola, che sennò ci viene di ammazzare di bestemmie tutti. Se Berlusconi va a dare il biberon agli agnellini, la Boldrini di più ne adotta due agnellini, una si chiama Gaia e l'altra John. No, non ho il detto problema Gioia. È la stessa cosa, grazie all'altra cazzella. Gioia, non ho detto Gioia, non ho detto Gioia, maggio. Comunque le chiama così. Ringraziamo il califfo, che è stato uno dei nostri ascoltatori più assidui. Assolutamente sì. Ci dedicò la poesia. Sicuramente dedicò il popolo Michela quando gli passò davanti sbrattando. Ma questi due agnelli, ma che fine fanno? A parte essere mangiati, comunque qualcuno si mangia. Sì, assolutamente. Belli adottati, vai da qua. Quanto sono buoni sti agnelli, proprio. Ah no, bisogna salvare gli agnellini dal Pasqua, perché siamo la sensibilità animali, la sensibilità animale. E poi quando se ne va dice, ma che ci facciamo sti agnelli? Butta il forno. Butta il forno, che sono sempre buoni. Allora, io invece da questo voglio togliere l'audio, perché non l'ho visto, ma è agghiacciante, perché c'è stato un episodio. Vediamo se si può togliere l'audio. No, sì, si può togliere l'audio. Cioè, praticamente c'è stato un mal, come si dice in termini tecnici, un malmenaggio. C'è stato sulla United Airlines. Ah, sì, questa è stato picchiato praticamente un uomo, non si sa per quali motivi, cioè, in realtà la storia è questa. United Airlines fa sé, che è una compagnia di merda, lo dico apertamente, fa overbooking, cioè praticamente vende più biglietti di quanti ne abbia. E hanno praticamente, ogni volta che c'è qualcuno, cioè, arrivi lì, l'aereo è pieno, dicono: qualcuno vuole essere volontario a rimanere giù, gli diamo un altro biglietto e gli diamo anche 200, 300, 400 dollari in buoni di viaggio, non in soldi veri. Che anche sti cazzi, no? Allora, questa cosa qua tendenzialmente è entrata in atto e hanno costretto uno a scendere dall'aereo dopo che si era già seduto, ma soprattutto per far salire dei dipendenti di United Airlines che stavano andando da un'altra parte. E questo fondamentalmente, dato che qualcuno ha filmato questa cosa col tizio che veniva trascinato via, è diventato una sorta di meme virale, e le azioni dagli United sono crollate in borsa nell'arco di due giorni. E poi ovviamente la guardia è stata sospesa, tra l'altro, quindi se non addirittura licenziato, ma vabbè, quello. E poi la guardia è l'unica che praticamente non ha colpa, perché segue gli ordini come buon nazista, insomma. Allora, io volevo parlare a nome della guardia, perché sono collega di cella e quando è stato arrestato, e volevo dire che è pazzo. Brutte notizie comunque dal mondo animale, perché aspetta se riesco sempre a capire questo fottutissimo, non ci riesco, ma tanto è uguale. Praticamente, no, prova ad aprire questo, io non ci riesco. No, quello sotto. Veramente non te capisco. No, non ci riesco. Oh, bravo, quanto è bravo il pizzico. Ci clicca sopra. Ci clicco. Non so perché. quando si fa una cosa sbagliata è un casino, allora alla fine è meglio pensare che sarà. Comunque, attenzione, a Taiwan è stata appena ratificata una legge che imporrà grossi sacrifici alimentari ai taiwanesi che moriranno ovviamente di fame, quindi avrete sulla coscienza, magari animalisti, migliaia di bambini che moriranno di fame, perché a Taiwan mangiare cani e gatti è diventato illegale. No. Sì. Cioè c'è gente che faceva il turismo così, animale, così distruggi una tradizione a Taiwan, c'era gente che faceva il turismo animale per andare a mangiare cani e gatti e adesso non c'è più, quindi fare. Turismo distrutto, bambini che muoiono di perché fame, perché io mi ricordo sempre una delle frasi più sagge che abbiamo mai sentito dire dallo zio De Michela, giù scali cinesi cani gatti, che insomma cinesi cani gatti. Poi devi capire tu, cioè non è, esatto. Non è che è stata spiegata la cosa, è tutto universale, insomma, devi capirlo, insomma, è poesia, nel senso di diventare sotto pelle, alla okay. Fine diventa sì, diventa comunque ermetismo, sappiate bene che da maggio non si potranno più mangiare cani o e gatti, i kine e i chiot, come diceva un amico mio, e quindi se volete mangiare cani e gatti a Taiwan sbrigatevi, perché sono tutti i giorni, probabilmente ci saranno anche delle offerte speciali, però cioè, così tu distruggi non solo una leggenda ma anche una tradizione. Ma stiamo parlando di Taiwan, non della Cina intera, Ho capito, Taiwan insomma, è quella che è stata colonia inglese, giusto? Non lo so, thank you Taiwan comunque. Vabbè, Taiwan non esiste più. Taiwan non è quella che dice che noi siamo uno stato, ma la Cina dice no. Ma chi è questo? Esatto. Allora, questa è Razz Degan, ha vinto, notizie, possiamo anche chiudere è internet. Razz Degan ha vinto l'Isola dei Famosi, cioè vogliamo non parlare di questa. Sta a morire, che cazzo gli è successo? No, è semplicemente superato i 50 anni. Sì, beh, credo, sì, può succedere a tutti. Ha vinto l'Isola dei Famosi. Sono fatti i suoi, commenta. Che battutona, mamma mia. Questo abbiamo preso da TV Zappa, bellissimo. L'ex modello, come previsto, si aggiudica l'edizione del 2017. Anche un toto Isola dei Famosi. Dell'Adventure Show e dona il ricavato ai bambini siriani. Il problema è quelli che stanno dentro Siria, infatti, quelli che vai a portarlo. Allora, bellissimo. Su questa cosa da Siria, ragazzi, è meglio non entrare, perché sennò poi direi cose impopolari. Ma comunque, sempre nello stesso circuito, Libero Quotidiano, che è il famoso quotidiano di intelligenza, il top, ci ricorda che Alessio Marcuzzi, mentre stava facendo l'Isola dei Famosi, se ne è uscita con un abitino succinto e col capezzolo in vista. È molto bello. Poi c'è Alessio Marcuzzi, mica mizia, insomma, cioè, alla fine ci sta pure bene. E non so, a questo punto ma non abbiamo altri. Io ho sentito un drin, non so se ci sono dei messaggi. Sì, aspetta. Una moto. Ma che dici? Ma per favore, mi compro un agnellino. Mi compro un bellissimo agnellino da latte. Amici, siamo al top. Questo non l'ho capito veramente. Questa è la cosa proprio più intellegibile, quando oramai il cervello ha smesso quasi completamente di connettersi con il resto. Sì, però poi anche lo smog. Certo. Tu immagina lo stress. Cioè, è come se lui stesse in macchina dalle 7 di mattina, praticamente. Quindi tu immagina. Poi a Milano, Milano. In realtà è sull'esperienza che abbiamo fatto noi a Milano, dove... E questo ce l'ha insegnato il buon Paganini. Milano e Gotham City, dove praticamente a ogni semaforo bisogna blindare Milano. La è peggio di Gotham City, perché comunque a Gotham City può darsi che ne esci vivo se entra Batman, perché a Milano Batman non c'è. Invece quando c'è Paganini, che si chiude dentro. Paganini, che salutiamo, che sicuramente si starà ascoltando. Sì, per cui mandiamo un messaggio diretto a Paganini. Paganini, escilo. Escilo, esatto. Ma soprattutto perché mi ricordo questa cosa, che Paganini ogni volta che si trovava al semaforo blindava la macchina. E poi tu te lo guardavi e lui diceva, ma voi non lo sapete, qui è pericoloso. E allora da lì poi abbiamo detto che Paganini è l'abitante di Gotham City, è un'esperienza che speriamo di non rifare molto presto. Assolutamente. No, bella Gotham City. Beh, ci sono i sondaggi di Libero. Sono poi... i sondaggi di Libero Quotidiano. Aspetta, ce l'abbiamo la suonetta. Aspetta, la suonetta. Vediamo. No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Libero, libero sondaggio. Questo sondaggio di Libero Quotidiano. E tu insieme di Libero. Che schifo. puntata di merda. Allora, una delle più brutte puntate, eppure non so perché, proprio per questo. Una brutta, inutile. Comunque, c'è Libero Quotidiano che nei suoi sondaggi di merda ci chiede: per voi la bomba di Trump è un avvertimento a quale paese? Un po' tutti, perché in realtà ha ammazzato alleati, nemici, ha ammazzato tutti, cioè nel senso, l'ha buttata lì, che poi abbiamo capito una cosa: fare il presidente degli Stati Uniti è facile, perché quando tu vai intorno al 30-25% di popolarità, butti una bomba di qua e di là e risali subito. Quindi Alex, prossima volta mi raccomando, candidati. Candida anche un po'. È che non sono abbastanza pazzo, secondo me. Per fare quelle cose devi essere abbastanza pazzo. No? O non sei abbastanza roscio anche. O anche roscio, sì. O abbastanza fuori di testa. Così. Roscio? Io voto non roscio, no, perché Obama non era roscio. Questo lo dici te. Ma la cosa bella è la categoria della notizia è sganciata. È la bomba. Oh, ha già sganciato la bomba. Quale bomba è? Quale bomba è? Questo sondaggio è che categoria è sganciata. Che poi sganciata a Roma bomba. Esatto. Secondo te, secondo me, questa cosa si ricollega con Nikola Tesla? Esatto. Mi sa di sì. Esatto, ma anche la cosa degli spiriti di prima. Le presenze. Comunque, andiamo al sondaggio sul calcio. Se si giocasse il giorno di Natale, voi la partita la guardereste? Anche sti cazzi, cioè. Io sì, la guarderei. Ma di brutto, cacchio, piuttosto che star lì con i parenti a due coglionarmi. Vuoi mettere brutto stronzo milionario, gioca a Natale, lavora a Natale, merda. Contrario, attenzione, contrario. Questo è il nome del tag della cosa. Perché a Sallusti non piace il Milan cinese? Non so. A chi è che non gli piace? A Sallusti. La mente eccelsa della politica del giornalismo italiano. Noi repubblicani. Voi che partito preferivate per la Santa Croce? Ma adesso voglio vedere i risultati. Cioè, vai a vedere. I partiti disponibili sono Alleanza Nazionale, la destra, Forza Italia e Noi Repubblicani. E ovviamente metto Noi Repubblicani. Io penso non repubblicani sarebbe stato bellissimo. Che vuoi non repubblicani? Da dove c'è fuori? Scusa. Invece non lo so. Dalla mente malata di questa gente, insomma. Nel mirino. I PM ce l'hanno con Briatore perché è ricco. Ma forse perché fa le puttanate, non so, così. Se poi ne ha detta una recentemente, come detto una bestialata. Vabbè, no. Briatore, ragazzi. Io andrei a ridateci il tempo perduto, Ma aspetta, ci sono papi. A voi manca Ratzinger come capo della Chiesa? No, proprio no. La palpada. Palpada era fighissima, bellissima. Poi cioè, aspetta, c'è forse qualcosa di nuovo? No, cioè, si è aggiornato, non è uscito. Se si aggiornano. No. Ok, allora io direi che possiamo andare. Andateci il tempo perduto perché. Aspetta, l'ultimo sondaggio, scusami, ma ci sta abitudini. Voi preferite bere acqua in bottiglia o da rubinetto? Cioè, questa è una cosa importante. Voglio sapere. Che cosa hanno risposto, ma andiamo avanti. Non so, c'è la tristezza. Beh, facciamo partire la rubrica? Faccio partire la musichetta. Sarà una merda totale. Io ho fatto partire la musichetta e voi facevate casino, ma va bene così. Ma sì, quella era bella. Vabbè, comunque, prima di ridateci il tempo perduto, che non so se Marco tu ce l'hai, ridateci il tempo perduto, però tu sei prolisso. Io voglio soltanto un suggerimento. Io ho rivisto, grazie a Netflix, un film che grazie a Dio avevo dimenticato da 20 anni. Ed è Punto di non ritorno. Ah, beh, sì, allora possiamo commentare insieme. Perché Punto di non ritorno, ho anche detto il titolo Event Horizon. Ah, sì, me lo ricordo. Che c'è Morpheus poi, quindi esatto, quando era magro. Ma c'è anche Sam Neill, cioè lo scienziato di Jurassic Park. Esatto, bravo, ok. Che poi l'ho rivisto anche in un altro film che sto poi vedendo, poi ne parleremo alla prossima puntata. E allora, perché ti porta avanti per i più giovani, io ve lo consiglio perché è veramente la fantascienza più trash che possa esistere. Cioè, nel senso, ne abbiamo visti i film trash, ma questo è stato secondo me il capostipite. È la fantasatascienza perché c'è il satanismo. Ah, c'è la satascienza. Allora, praticamente c'è questa nave che parte praticamente. Event Horizon? No. l'altra nave, cioè questa nave è una nave di soccorso che deve andare a recuperare una nave che si era si pensava che fosse andata perduta, che aveva un motore sperimentale, faceva il buco nero, e praticamente quando questi riescono a raggiungere sta nave praticamente dentro sono tutti morti, ma sono tutti morti anche male, a quanto pare. Nessuno, mi sembra, no, ci trovano i cadaveri, uno ghiacciato che poi casca per terra e si sfrantuma in mille pezzi di ghiaccio e sangue e insomma praticamente quella che doveva essere questa nave, quindi la Event Horizon, era la nave che doveva fare il primo viaggio interstellare con questo motore a buco nero il motore a buco nero che è fantastico, il motore a bucio nero, esatto, che poi tra l'altro mi sa che ne ha parlato Simone Cusella recentemente in una delle ultime puntate, insomma, di questa trasmissione non ha un nome. E vabbè, questa quando ritorna sta nave spaziale da questo in realtà non è andato a fare il viaggio interstellare, ma è entrato in un'altra dimensione ed è ritornato, e la direzione era di puro male. È vero, il puro male, una dimensione di puro male. Di puro male, che cos'è? Di puro male, paura come non mai. esatto, l'idea, quello sarebbe la direzione del film che non abbiamo visto, trovato in The Market, ma vedrai che lo trovo su Torrent da qualche parte, lo troviamo. E sapevo io, vabbè, quindi praticamente questi sono tutti morti perché sono entrati nella dimensione puro male, e questo puro male ci ha preso a male e sono morti, e fuoriesce anche nella realtà normale, certo, perché intrisa la nave, e quindi alla fine muoiono quasi tutti male, tranne qualcuno che riesce a scappare. Però poi sai, c'è sempre quei film che finivano che non si sapeva bene se era finito bene o se era finito male, perché dicevo alle brutte dovessimo farci due spicci, ci fa anche il secondo. Un film che è molto anni 90, nel senso dell'epoca, era brutto pure allora, ve lo dico proprio. Film abbastanza brutto, un po' come La Sfera là, come Super Giù, era di quella serie dei film che avevano iniziato a uscire, dove c'erano queste cose di fantascienza che c'avevano il contatto con l'altra dimensione che ammazzava tutti. Ti ricordi pure quelli che trovano La Sfera? Sì, sì, Sfera, però era tratta da un libro di Crichton, tratto male, ma trattano di Crichton. Ok, però quel film, cioè voglio dire, era... No, impossibile, una cagata infernale. Tutto uguale, esatto. E però ecco, appunto, secondo me è un po' indice di un'epoca che non c'è più, nella sua bruttezza. Comunque oggi l'ho riguardato con, chiaramente non faceva più lo stesso effetto da allora, che lo vidi al cinema addirittura, ricordate. Insomma, consiglio. Gli hai pure dato i soldi. Io ho dato pure i soldi, e che ne sapevo io che era brutto, cioè nel senso, sai, una volta c'era il rischio che non sapevi mai che andava, c'era tutta questa informazione, vedi il trailer, ti piaceva, cioè andavi, cioè nel senso, però ecco, insomma, nella sua ingenuità, nella sua stupidità anche il film, insomma, però secondo me comunque merita un po' della nostra attenzione, anche se però comunque io avendolo rivisto due volte, a quel punto me lo domando, cioè ridatemi veramente il tempo perduto, perché sono un po' stato colpa. Tu invece hai qualcosa che hai visto? No, io ovviamente avevo visto tante cose, ho visto anche Resident Evil, Cazzo Imperio Nuovo, che bel chiesto. Quando è finito quel film stavo seduto e ho fatto bella. Ma proprio con soddisfazione, cioè perché quello cercavo. Non ho mai provato tanta gioia nel vedere con consapevolezza una merda. No, la cosa più fantastica di tutti è ricordarsi il finale del film precedente e cercare di collegarlo con l'inizio. Praticamente c'è un buco in mezzo. Rapidamente, nel vecchio film la protagonista, che è Mila, quella gran gnocca di Mila Jovovich, perdeva cioè i suoi superpoteri, e alla fine Wesker, che è uno dei super cattivi, il mini boss del film, gli puntava una siringa in gola. Ecco, adesso ce l'hai di nuovo, te li ho ridati. Erano a Washington, e questa dentro la Casa Bianca, ed erano circondati da tipo un fottiglione di zombie, e finiva così il film. Come comincia il film? Tutte macerie. Mila Jovovich si sveglia, oh santo cielo, oh mamma mia, così così, e alla fine si scopre che in realtà questi poteri non ce l'aveva più, perché Wesker ovviamente l'aveva presa per culo. E tu dici, ma a che pro? Perché? Totale di poteri? È vero, no, questo sta sappia per culo, perché sono cattivo. Tu dici, vabbè, ma che cazzo è? Che roba? Probabilmente perché volevano fare un altro film, e poi alla fine, ma forse è meglio farne un altro. Ma probabilmente tu, Alex, invece ce l'hai un ritardo sul tempo perduto? Non ho ridateci il tempo perduto perché tendenzialmente sono molto selettivo adesso su quello che guardo, che è pochissimo. Bene, sono, non sono molto divertente. Invece Netflix sta veramente, la prossima puntata ve ne porto un altro, poi parlerò di iBoy. E quindi insomma state freschi per la prossima puntata, perché veramente ce n'è da dire. E c'è però a questo punto andiamo alla posta, chiudiamo questa trasmissione che veramente, ma non la supposta, sfiora diciamo l'inutilità e la noia, anche, però la dovevamo fare perché era troppo tempo che non... perché poi me l'avevamo detto, non è che potevamo dire dall'ultimo minuto no, non facciamo più. Sì, ma in realtà avevo in mente una cosa, poi dopo purtroppo sono successe delle cose durante queste settimane che mi hanno spinto a, secondo me, lo sai, a, che a esplorare come era il puro male. Secondo me lo sai che dovremmo fare? Dovremmo fare invece dare un titolo. Io faccio molti XXX, come poi dopo glielo diamo dopo il titolo. No, poi parliamo di quello che a massimo di bestemmie, quello che ci cambia. Infatti tu, sì, ma io questo ammazzare l'ho sempre detto questa cosa. Potrei ammazzare di bestemmie quello che... Però poi Alex dopo entra in crisi perché non sa cosa fare la cover. Ma che faccio la cover? Ma no, ci metto la faccia del Pizzi, che mi frega. Infatti. Vogliamo ascoltare uno degli ultimi messaggi del buon Gualtiero? Ma soltanto se c'è del puro male. Cioè, assolutamente sì. Ragazzi, e quando sei al casello di Milano Est da circa un'ora e nulla si muove, solo la zanzara, solo loro, solo Berlusconi con gli agnellini, ma siamo veramente al top, ragazzi. Ragazzi, qua siamo al top con gli agnellini, i nostri fratelli minori, i nostri animali, gli animali naturali, i nostri fratelli minori, animali naturali. Ragazzi, ma dai, meno male che c'è la zanzara, ragazzi, che qua ci scartavetriamo davvero i maroni. Ma questo tutti i giorni fa questa storia, cioè, No, questo sì. Poverino. Sì, in effetti. E questo è stato l'ultimo messaggio che ci ha mandato. E da lì poi non abbiamo più saputo nulla. Secondo me è finito nella dimensione di puro male. È probabile. Tra 40 anni uscirà. Lui, secondo me, ha fatto un'esperienza con un mix tra sfera. Solaris e Event Horizon, esatto. È devastante. Sì, esatto. C'è il delirio di Solaris. Cioè, il puro male di Event Horizon è lui, infatti lui si fa esplodere gli occhi a un certo punto. Sì. Dove va, dove andremo, non abbiamo bisogno degli occhi, è fantastico, ragazzi. Va bene, è un po' una citazione. Cazzo, dove andiamo, vero, non abbiamo bisogno delle strade, cioè. esatto, bravo. C'è una citazione di dove andiamo, esatto, non c'è bisogno di strade. Questo, esatto. Non lo voglio sapere. Comunque c'è posta, c'è la supposta. Perché voi sapete che Marco Gualdi oramai c'è la posta dell'amore, si è messo sul mercato e quindi riceve queste solo da russo, non riesco a capire perché. Vabbè, però sono russo, che mi scrivo, attenzione, non so se ce l'ho, attenzione, dopo la scarico, non so se è un virus, però dopo la scarico vediamo, insomma, non so. C'è l'apposita musicazione romantica, sì, che lui metterà in post-produzione. In post-produzione. Buon pomeriggio, sono Anastasia, Russia cittadina. Mi preoccupa un po', sono un cittadino, però lavorando in campo Russia cittadino lavorando in campo economico, che non significa tutto, però, cioè, ha deciso di lasciare questa risorsa ai dati nel calcolo che risponde alla persone che sarà interessante conoscere con me. Io ha deciso di lasciare questa risorsa ai dati nel calcolo che risponde alla persone che sarà interessante conoscere con me. Ma questo è un messaggio della massoneria, ma proprio chiaro. Cioè, questa è la P2. Dico che siamo appena al 10% del messaggio, quindi potrebbero esserci altre cose. Io, alla ricerca di incontri uomo onesto, possesso di un senso umorismo e temi che ho saputo trovare interessi comuni. Attenzione, perché queste cose... Io, senza sforzo, trovo questo molte persone. Tuttavia, ho bisogno di chi vorrei potrebbe discutere di tutte le sue gioie e le preoccupazioni. Ma non è, dipende pure dalla lingua, dalla lingua d'origine. Probabile, sì. Lo chi la nostra comprensione sarebbe a completa consapevole. Sarebbe a completa appunto. Scusate, non rileggo la frase perché poi togliendo il punto non si capisce. Lo chi la nostra comprensione sarebbe a completa. No? Giusto? Giusto. Sì, sì, sì. Finisco, ti seguo. Indubbiamente è così. Consapevole, la perfezione è difficile da raggiungere. Tuttavia so, può semplicemente diventare più vicino a lui e mi è soddisfatto. Ma questo è Jar Jar Binks, ragazzi. Avresti dovuto fare. Mi ha scritto Jar Jar Binks. Io però no, è che adesso ti giri e uscendo dalla casa dei pizzi Jar Jar Binks te lo butta al culo. Esatto. È probabile che questa cosa. Tra l'altro, per concludere bene Morti di bestemmie, guarda che parliamo di lui, hai finito? No, c'è sta ancora mezza lettera, ragazzi. No, no, vabbè, no, no, leggiamo tutti. Ma c'era, capito? Voglio un po' di vita. Mi? Allora, giocamoci di Jar Jar Binks adesso. Mi, 28 anni, io ottimista e positivo, persona che è pronto a percepire ogni persona, se solo avesse decente in grado di andare incontro. Tutto quello che è necessario, stiamo potrebbe parlare corrispondenza, rappresentanti e di punti di contatto. Io credo la presenza di un linguaggio comune. Quale linguaggio comune, cazzo? Quale? Iniziale importante indicatore che siamo d'accordo non a caso. E avanti si potrebbe sviluppare comunicazione, quindi ho detto per te stesso maggiori dettagli. Io voglio un rapporto serio. Voleva avere una famiglia con preferito una persona. Avere bambini e felicità. Vabbè, Alex. Oh, no, però devo dire che con la voce di Jar Jar Binks ha tutto un altro senso, cioè, eh. C'è un senso, secondo me c'è una dignità. Soprattutto Gualdi ci mette la metà del tempo a leggere le sue cose, per cui diventa anche più gestibile la cosa. Esatto. Ma no, perché io cerco di metterci del romanticismo. Vorrei anche dire, vi saluto con la morte di bestemmie finale, che praticamente noi siamo andati l'altro giorno e volevamo fare una passeggiata su via Appia Antica e ci siamo trovati al parco della Caffarella, perché per chi sa Roma, insomma, più o meno l'inizio del parco dell'Appia Antica è vicino al parco della Caffarella, e quindi noi abbiamo preso il bucio sbagliato. E allora Marco è andato al bagno a un certo punto e si è reso conto che, vedete, nei bagni pubblici dove c'è una grossa affluenza di turismo a Roma, i messaggi sono scritti in inglese. È importante che sono scritti in inglese, perché chiaramente devono essere. Allora, noi siamo ignoranti in inglese, diciamocelo. Ma se sì, non ci avessimo un Google Translate, no, io e te. Ah, okay. Mentre Alex, che è di Milano, è uno saputo. Lui ne sa. È saputo. Io conoscenza. E quindi adesso gli facciamo tradurre. La frase: non gettare null'altro che la carta igienica nel water. E questa è in italiano. Ok, anche, anche un senso quasi epico. Non sì, gettare diciamo, null'altro che la carta igienica, diciamo, nel bagno. A malapena esatto, riusciamo a capire il significato, esatto, perché non siamo in grado. Però, in inglese è tradotto con. Aspetta, ma no, questo forse è esatto. Aspetta, attenzione: do not throw anything other than toilet paper in the toilet. Ah, sì. La frase italiano: un uso corretto del bagno ne consente l'utilizzo a tutti. Giusto? Giusto, giusto. Proper use of the bath allows its use at all. È bellissimo, cioè è anche questo. Ma secondo me sì. È inglese antico, cioè tipo Defender of the Crown. Esatto. È shakespeariano. Quello che usa Tai invece che io. Esatto, è tutto uno. Potremmo chiederlo a Michela, che avendo studiato lingue ha parlato a parlare con Shakespeare, insomma. Quello tu, no? Vabbè, ha studiato. Ma non ti sentono, Michela. Non ti sento. No, io lo sento. Shakespeare, esatto. Sì, questa è un'altra storia lunga che non racconteremo mai, chiaramente. E niente, ragazzi, io direi che ci dispiace aver fatto questa puntata così brutta. Siamo però talmente contriti che probabilmente ringraziamo anche, perché so che Spazio ci ritireremo, ci ha lasciato anche dei messaggi. Ci ritireremo in una zona di puro male. No, però ricordati sempre che la gente ci chiamava, ci voleva. Io ho visto vari messaggi, ma quando tornate, bestemmie da qua, bestemmie da là. Adesso, ma quando verrà andare? Diciamo andrà bene anche la puntata con questa, prossima sarà sicuramente meglio. Non lo discuto, andrò anche a recuperare insomma vari messaggi che abbiamo ricevuto. Non so se ci sono recensioni su iTunes, ma ne dubito. Perché... No, no, non c'è niente. Okay, quindi... Ma ormai iTunes è morto. Esatto, infatti iTunes è morto. E vi ricordo che domani pomeriggio dovrebbe uscire la nuova puntata di Archeologia Informatica, una puntata dedicata al MSX, lo standard MSX, è una cosa importante. La prossima settimana tornerà MDB Summer Radio e tornerà anche mercoledì prossimo LVT anche con me e Michela, e con Marco non so in quale altre occasioni ci rivedremo, insomma. Poi. Vorrei sottolineare che la prossima puntata di MDB Summer Radio, figlia di MDB ma ormai più grande di MDB, avrà l'ospite speciale Roberto Marin e si chiamerà Raf, una puntata violenta, stavolta è pure troppo pure per me. E ci saranno i messaggi di disperazione di Eugenio? Guarda, spero di sì. Tra l'altro, aspetta, perché non posso usare il suo vero nome, ma che è Gualtiero. Poi quando vi dico il nome, che è praticamente identico, mi mettete Gualtiero. Sì, adesso gli chiederò di mandarmi messaggi direttamente. Ok, direttamente va benissimo. Bene, detto questo, io ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao, I'm fine and thank you museum. I'm well. I'm happy and thank you museum. And thank you museum. Yes. E così. E adesso noi installiamo tutte le cose che servono per la radio per funzionare, perché altrimenti siamo messi nei guai. Saluto Alex Racuglia. Thank you, Dimensional of Pure Evil. Che sarà il nome della prossima puntata. Se penso parlo di inutile di ammazzo. Ma sì, ma perché? C'è gente che lo fa. Di pura malvagia, di puro male. Di puro male. Era proprio di puro male, cioè, ridicolo. Sì, sì, puro male. Sì. Esatto. E niente. Che poco come dire pura sete. Da me, Simone Pizzi, avanti in radio, ci sentiamo alle prossime puntate e thank you. E andatevene tutti Paganini, esci no! E andatevene tutti quanti nel puro male.